Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi torniamo a parlare di sicurezza stradale, un argomento che negli ultimi giorni ha avuto grande eco dopo i tragici fatti della 10. Certamente ricorderete gli operai falciati mentre erano impegnati nel ripristino di un guardrail. L'incidente ha portato alla ribalta vari aspetti collegati ai cantieri lungo le autostrade, alle modalità di intervento, ai limiti e alle restrizioni imposte quando c'è chi lavora accanto al traffico che scorre. Ma l'analisi di quanto avvenuto ha riproposto anche la questione delle infrastrutture, concepite come nel caso della 10 mezzo secolo fa, quindi tarate in origine su volumi di traffico ben diversi da quelli attuali. Sul tema dei cantieri aperti lungo le autostrade, quindi sulla necessità di aumentare gli standard di sicurezza per i lavoratori, ma anche per chi transita, nei giorni scorsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è svolto un incontro a presiedere l'ingegner Sergio Dondolini, responsabile della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale. Ascoltiamolo. C'è già un decreto del 2013 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero della Salute, che già fissa tutti i criteri generali affinché le operazioni dei cantieri si possano svolgere in sicurezza. Nell'incontro si sono appunto confrontati, c'erano un po' tutte le parti in causa, perché il problema è abbastanza articolato e coinvolge tutta una serie di competenze che riguardano sia appunto la sicurezza dei cantieri, ma la qualificazione delle aziende che svolgono questi lavori, la possibilità di proteggere i cantieri, eccetera. Quindi diciamo c'è stato un confronto particolarmente proficuo. Ci sarà appunto un incontro al Ministero del Lavoro il 18, ci si è aggiornati appunto a questo incontro, dove si potrà entrare proprio nel merito delle singole questioni e cercare di ipotizzare la strada che dovrebbe essere appunto quella di un aggiornamento con delle modifiche del decreto del 2013. Ma sentiamo in concreto quali sono le soluzioni al vaglio, con l'obiettivo, come dicevamo, di aumentare i livelli di sicurezza e quindi prevenire incidenti come quello avvenuto due domeniche fa sulla Ventimiglia-Genova. Una proposta è stata quella di classificare le strade in base al rischio e quindi conseguentemente ipotizzare delle misure che possano essere corrispondenti a livello di rischio. Quindi già è previsto nell'attuale decreto una valutazione del rischio connesso col tipo di intervento da eseguire, ma ecco, cercare di spingere e andare avanti proprio per cercare di prevenire. Quindi una mappatura dei tratti più a rischio, dove l'apertura di cantieri comporterà misure più stringenti. Più accentuate la possibilità di migliorare tutti gli appostamenti segnaletici per avvisare appunto i conducenti. Ripeto, già sono previsti, ma insomma la ricerca appunto l'obiettivo è appunto la salvaguardia della vita umana. E a proposito di sicurezza stradale e di infrastrutture, un tema caldo riguarda i trasporti eccezionali. Anche in questo caso la questione si è posta in seguito all'incidente di Annone-Brianza a ottobre, ricorderete il crollo del cavalcavia. Da mesi gli enti proprietari delle strade bloccano la concessione delle autorizzazioni al transito. All'ingegner Sergio Dondolini, responsabile della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, abbiamo chiesto un aggiornamento anche da questo fronte. Si stanno valutando la possibilità anche qui di adottare un provvedimento, una direttiva che ovviamente come tale non può che ricalcare quelle che sono le linee che già le norme dispongono, ma che in qualche modo possono servire anche a dare una chiarezza a tutti gli enti proprietari e concessionari, ricordare alcuni degli adempimenti che possono essere come quella della realizzazione di sportelli unici per il rilascio delle competenze, fermo restando gli aspetti di sicurezza appunto che riguardano appunto la verifica puntuale delle opere e l'individuazione, ove non sia disponibile, appunto della loro capacità portante. Torniamo sulla 10, la Genova-Ventimiglia, dopo l'incidente di due domeniche fa. Come dicevo prima, un'autostrada realizzata praticamente mezzo secolo fa, un tracciato a curve, gallerie, rettilinee, anche con qualche dislivello, insomma un percorso a suo modo problematico. Sentiamo Pierluca Gallo, vicepresidente della sezione Savona-Imperia di FAI. Per noi adesso è diventato abbastanza difficoltoso percorrere questa autostrada per via che il traffico è aumentato a dismisura negli anni, oramai la struttura non la sopporta quasi più, diciamo. Sinceramente la mia opinione sugli incidenti che succedono ultimamente, che io la darei anche abbastanza all'inesperienza degli ultimi autisti che ci sono in giro, che non hanno più la professionalità di quelli di prima, ecco. Do la colpa tanto anche a autisti stranieri che non hanno la preparazione dei nostri. Noi funziona che dobbiamo dare corsi, dobbiamo far fare le patenti, dobbiamo far fare in determinato modo con un determinato tot di ore. Là è un po' troppo facile la cosa. Su questa autostrada, sinceramente, ci vuole un po' più una preparazione, non si può imparare a guidare sul camion. Adesso si usa, specialmente nelle ditte straniere, spagnole, compagnie che hanno tutti autisti dell'est, si usa metterli sul camion, uno sa guidare e l'altro impara. E quello che è successo domenica è la soluzione di quello che vi sto dicendo. Tra le proposte avanzate è quella di installare il tutor anche sulla 10. Sentiamo ancora come la pensano gli autotrasportatori liguri. Torniamo al discorso che poi bisogna rispettarle queste regole, perché noi italiani rispettiamo il tutor, ma quei camion lì stranieri non rispettano, perché tanto a loro problemi non gli arriverà mai la multa e non la rispettano lo stesso, il problema rimane lo stesso. Sul fronte dei cantieri, giustamente l'autostrada ha i suoi anni e ha bisogno delle manutenzioni, però sono tanti, i cantieri sono tanti, perché percorrendola da 20 miglia a Genova si potrà incontrare da una settimana all'altra 8-10 cantieri sullo stesso tratto, cioè, quindi è tanto. Un'autostrada vecchiotta, quindi bisognosa di cure, ma sulla quale il traffico leggero e pesante è in costante aumento. Questa qua è rimasta, diciamo, l'arteria primaria che unisce Francia e Spagna con Italia, e se andiamo a vedere adesso anche Est Europa, perché la maggior parte passa di qua per andare in Est Europa, non passa, prima passavano di sopra tra la Germania, ma loro hanno ristretto molto le norme sulla sicurezza stradale e tanti deviano, anche se allungano deviano di qua, difatti noi qua il traffico è diventato veramente ingestibile di mezzi pesanti. Dalla Liguria alla Puglia, dove l'autotrasporto subisce pesantemente le incertezze che gravano sul futuro dell'Ilva di Taranto. Un'altra emergenza riguarda il fenomeno delle rapine e danni dei tir. Come dicevamo già la scorsa settimana, la Puglia è la regione dove si conta il maggior numero di assalti. A Bari abbiamo intervistato il presidente regionale di Anita, Natale Mariella. Non c'è futuro, non ci sono prospettive, i problemi sono due sostanzialmente, il pagamento del pregresso e la prospettiva del lavoro, il futuro che assolutamente manca, e c'è un indotto incredibile, perché la quantità di mezzi che lavorano nell'indotto Ilva è notevolissima e che stanno soffrendo, ci sono più di un'azienda che chiude al giorno perché non ci riesce a farcela. C'è un'altra emergenza, anche se su questo fronte si intravedono segnali incoraggianti, è quella che riguarda i furti e direi soprattutto le rapine ai danni dei mezzi pesanti. Sì, ci sono forti segnali incoraggianti da parte delle forze di polizia che stanno facendo un ottimo lavoro, e leggiamo sui giornali ogni giorno di qualche successo che considererei notevole. Ecco, anche perché lo ricordiamo, la Puglia è la regione, secondo le statistiche, più colpita dal fenomeno delle rapine. Purtroppo sì, e aggiungerei che uno dei problemi più grossi è che le rapine avvengono anche ai danni di mezzi che trasportano carburante, dove oltre al danno economico e al pericolo per la persona rapita, perché viene sequestrato l'autista, c'è anche un problema di sicurezza sociale e di sicurezza dell'ambiente, perché un mezzo che trasporta idrocarburi inquina, può esplodere, può andare in fiamme provocando ingenti danni sia, ripeto, per il territorio, per l'ambiente che per le persone. In azione vere e proprie gang criminali, come confermano gli sviluppi di determinati fascicoli investigativi. Sì, è gente assolutamente organizzata che fa questo di mestiere, sono estremamente professionali e purtroppo ai danni dell'autotrasporto. Con hashtag Autotrasporti oggi mi fermo qui, grazie per l'attenzione, appuntamento a lunedì 13.45, ora il GR da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.